America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, a sorpresa, il presidente Barack Obama è intervenuto ieri cercando di gettare acqua sul fuoco, sulla grande agitazione che ha turbato i mercati nella giornata di ieri. Cosa ha detto Barack Obama? Beh, è stato molto specifico. L'Italia non è la Grecia, ha detto. È un paese grande, un paese ricco. Atene ha un problema di solvenza, l'Italia ha più un problema di liquidità. Il presidente ne ha approfittato per riprendere anche l'appello che aveva fatto al vertice di Cannes, al fallimentare vertice di Cannes, dobbiamo dirlo, perché il presidente era arrivato chiedendo dettagli, azione sul piano lanciato dagli europei il 26 di ottobre per creare una struttura finanziaria che avrebbe aiutato i paesi in difficoltà. Ebbene, a Cannes non è successo nulla. Obama ha di nuovo chiesto ieri alla Germania e alla Francia di dare concretezza a questo progetto. Ma l'intervento di Obama non è stato il solo ieri. L'Italia in qualche modo ha di nuovo dominato i media americani. And for more we turn to Mario Calvo Platero, US correspondent for the Italian newspaper Il Sole. Vi avevo raccontato l'altro giorno in compagnia di Vittorio Zucconi come l'America si sta interessando enormemente dell'Italia. Ebbene, è capitato, come avete sentito da questa registrazione che vi ho fatto sentire, di essere stato chiamato a uno dei più ascoltati programmi televisivi americani, il News Hour della PBS. Può essere interessante, credo, per voi capire che tipo di dinamica si mette in moto quando una televisione americana si occupa dell'Italia. Fears that Europe's debt crisis has taken a new turn for the worst drove markets down today. La trasmissione è partita subito con un dettagliato resoconto su quello che è successo ieri in borsa a New York, perché la crisi partita dall'Italia ha già colpito l'America. Il Dow Jones, l'indice Dow Jones, ha perso 389 punti, a un certo momento ne perdeva anche 440, ma alla fine ha chiuso con una perdita del 3,2% a 11.780 punti. Resta un livello pur sempre piuttosto soddisfacente per il Dow. Il Nasdaq ha chiuso in perdita del 3,88%, quasi il 4%. Insomma, gli investitori americani hanno reagito male al fatto che in Italia è sembrato per un momento che ci fosse un vuoto di potere, che non ci fosse un programma per una successione. Tutto si è chiarito, secondo me, quindi vedremo poi l'America come prenderà queste notizie che ancora non aveva recepito ieri. Si è chiarito che ci sarà un percorso per approvare i maxi emendamenti al progetto di legge per stabilizzare l'economia, e la cosa sicura, i messaggi che vengono dagli Stati Uniti sono: non si deve perdere tempo, assolutamente, bisogna procedere con rapidità estrema. Questo sia dal punto di vista psicologico, bisogna rassicurare i mercati del fatto che in Italia c'è qualcuno che ha il timone in mano, sia dal punto di vista concreto, bisogna che in Italia qualcuno prenda delle misure che ancora non sono state prese. Questa è la sfida che si prepara, ed è questo che poi ho detto al mio interlocutore Jeff Brown. Ho cercato di rassicurare sul fatto che le cose in Italia si erano mosse già molto più in avanti rispetto a quello che sembrava o potesse essere percepito dal mercato. If you suddenly boot a country like Greece out of the euro, you're going to see Greek citizens potentially have a run on their bank, go out to take the euros out before the devalued and depreciated drachma comes in. Questo era Robin Farad che parlava di Business Week. Ha dato un quadro piuttosto negativo, perché ha cominciato a parlare di una possibilità di una corsa agli sportelli delle banche, del fatto che se una banca fallisce magari in Francia o in Italia, poi che cosa succede con le altre banche, e dunque ha dato un quadro che secondo me non è molto realistico, perché le banche europee, soprattutto quelle grandi, sono capitalizzate piuttosto bene, non ci sono delle scadenze immediate che obbligheranno le nostre banche, parliamo delle nostre banche, Banca Intesa, Unicredit, ad andare sul mercato per cercare dei finanziamenti, perché molti di questi fabbisogni di cassa anche per il 2012 sono già stati coperti interamente quando si è capito quest'estate che la situazione poteva essere piuttosto delicata. Dunque non mi trovo d'accordo, non mi sono trovato d'accordo con l'analisi di Robin Farr, o meglio, lui ha cercato di spiegare il perché di una reazione di una parte del mercato. È vero, la reazione è legata proprio a questo tipo di paure, ma dobbiamo chiederci, ci sono davvero degli elementi di destabilizzazione tali che possono portare a un panico generalizzato? Devo dire, lo stesso Farad ha ricordato che l'Italia non ha un problema immediato, l'Italia può andare avanti tranquillamente molti mesi anche in situazioni di difficoltà dal punto di vista della liquidità, e qui introduciamo l'elemento chiave della nostra situazione: liquidità e solvibilità. Oggi il mercato sta cominciando a chiedersi, a domandarsi se l'Italia, oltre ad avere un problema di liquidità e quindi un problema di poter finanziare a breve le proprie emissioni, quella di oggi da 5 miliardi di euro dei BOT, ma soprattutto quella che attendiamo per lunedì, 10 miliardi di euro in titoli a 10 anni, e ci sono un po' di timori che questa emissione possa non andare benissimo. Timori perché non si pensa, il mercato non crede che ci sarà per lunedì un nuovo governo. Per questo siamo in una corsa contro il tempo, per questo l'America, il mondo intero si interessa di quel che sta succedendo da noi, e per noi c'è chiaramente una sfida, la sfida di dimostrare che forse siamo un paese in grado di camminare con la schiena dritta. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Una casa d'asta di Los Angeles metterà in vendita vari oggetti appartenuti a Michael Jackson, in particolare pezzi di arredamento, mobili della sua casa, e c'è anche il letto in cui il cantante morì nel 2009. Dedichiamo a Michael Jackson dunque la canzone del giorno con uno dei suoi grandi classici, Beat It. New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.